Appello. Ademo Elisabetta. Presente. Bozzini Emanuela. Presente. Calderon Clelia e Leo. Presente. De Angelis Marco. Presente. Obbligo di frequenza. Di Maria Piera Ceci. Ci avrete mai come volete voi! Oggi in piazza Noge il Mini Day, vogliamo dimostrare che la battaglia per la scuola vogliamo vincere, vogliamo essere determinati a riprenderci la nostra scuola, una scuola di cultura e non di tagli, una scuola di formazione e criticità, non di ignoranza e razzismo, come purtroppo vediamo le logiche applicate della Gelmini and Company. Faccio il maestro elementare a Milano in Viale Romagna, sono qua oggi per una questione molto semplice, la scuola deve essere un elemento centrale all'interno di questa società. Ieri studenti, insegnanti e precari sono tornati in piazza contro i tagli e contro il precariato su iniziativa della CGIL di Unicobas. Evidentemente a molti dà fastidio che la scuola finalmente non sia più proprietà privata della sinistra, ha commentato il ministro della pubblica istruzione Gelmini. Le proteste sono organizzate da una precisa parte politica, non sono certo manifestazioni spontanee che uniscono studenti e professori, ma si tratta di manifestazioni politiche organizzate da militanti contrari al governo e alle riforme. Io credo che dovremo anche in fase di stesura del piano per il Mezzogiorno liberare risorse per migliorare in modo particolare il patrimonio edilizio scolastico del Mezzogiorno, e stiamo trovando anche alcune formule per recuperare risorse da enti privati. E il ministro Gelmini ha lanciato questa settimana anche l'invito ai privati: investite nella scuola, tirate fuori soldi per le nostre sgangherate aule, soprattutto al sud. E a pensarla così non è solo il ministro. L'assessore all'istruzione della neonata provincia di Barletta, Andre Trani, si è spinto oltre con un'idea sempre rivolta alle imprese. Dateci 69,80 euro IVA esclusa e noi metteremo targhette con il vostro nome sui banchi. Paolo Panceri ha chiesto all'assessore Pompeo Camero come gli è venuta in mente quest'idea. Guardi, innanzitutto per sondare quanto interesse ci sia nella società civile verso i problemi della scuola, finché non si ricada nei luoghi comuni, nel trovarci, come spesso accade, a parlare di riforma Gelmini e invece lasciare che la scuola nel frattempo sia abbandonata a se stessa, magari su cose molto più importanti, quale il piano dell'offerta formativa, per esempio, che deve tener conto anche di fatti strutturali e, perché no, anche di suppellettili. Guardi, io sulle prime ho dovuto vagliare solo le istanze che mi derivavano dai dirigenti scolastici delle secondarie di secondo grado, e purtroppo mi sono reso conto ben presto che la gara che era stata celebrata dalla dirigente non soddisfaceva l'intera richiesta, anche perché nel frattempo erano giunte poco prima dell'anno scolastico nuove richieste che invece lamentavano ulteriori carenze, e lì mi è venuta questa idea. Spero, insomma, l'abbiamo dovuta anche vagliare sul piano tecnico giuridico, spero ovviamente che ci sia anche grande interesse da parte degli sponsor, che con i loro brand vorranno acquistare i banchi secondo un pubblico incanto che, tra l'altro, un sondaggio di mercato che noi abbiamo già fatto, non è che dovranno, diciamo così, per così dire, darci dei banchi. I banchi li abbiamo già selezionati in una precisa gara, così come per sedie, si tratterà semplicemente di dotarli di un brand, di una sponsorizzazione. Guardi, non è un'idea probabilmente originale, perché io l'ho mutuata da quello che per anni è accaduto nelle nostre parrocchie quando si dedicavano i banchi, solo che abbiamo cambiato semplicemente il target. Lì erano le famiglie che decidevano di acquistare un banco per la chiesa, invece nel nostro caso io spero che siano in tanti a dimostrare questo interesse, che vada in maniera tangibile nella direzione di dotare le nostre scuole di suppellettili. Ma cosa sta succedendo al liceo Manzoni di Milano? Fumogeni, bandiere, scontri. Una volta, poi ancora. Scene d'anni 70 che non avremmo voluto vedere più. I genitori sono spaventati, il preside decide di mettere le telecamere. Le interviste raccolte da Ambra Notari. In pratica niente, sono arrivati un buon numero di fascisti, di più rispetto alla settimana scorsa. E hanno incominciato a cantare diversi slogan. Ovviamente la polizia li ha bloccati alla nostra uscita. Poi ne sono arrivati altri dall'altra via, ma sono stati bloccati anche quelli. Quando sono stati dispersi siamo riusciti ad andare a casa. Ma in realtà il problema è che sono sempre venuti per volantinare. Queste volte invece si sono presentati con le cinghie, con le bottiglie, con le spranghe, quindi avevano un obiettivo ben preciso. Questa gente è capace di prenderne uno che sta tornando a casa da solo e picchiarla. Ne è capace, è già successo negli anni precedenti. È successo che, come al solito, sono venuti a far casino i fascisti davanti alla nostra scuola. Cioè, è successo già un sacco di volte l'anno scorso, non era niente di nuovo. E la cosa nuova sono stati i centri sociali che sono venuti a difenderci. A voi piace come idea che ci siano le telecamere? No, perché no? Ma perché non capisco il motivo per cui dobbiamo essere sorvegliati. Dovrebbero sorvegliare quelli che vengono qua davanti a provocarci, non noi. Qua, essendo appunto uno dei licei più politicizzati di Milano, sanno che possono avere una risposta. Io ti dico, faccio parte del collettivo, no? Sono in consulta studentesca, vabbè, quindi ci sono abbastanza immersi. Però sono dell'idea che il Manzoni venga preso di mira, perché è l'unica scuola politicamente attiva rimasta. Nessun'altra scuola ha un collettivo così potente come è quello del Manzoni. Sicuramente c'è una strumentalizzazione da parte di persone che non sono all'interno della scuola e non sono neanche tra i giovani. Secondo me c'è una manipolazione con persone più alte. Però credo che ormai le telecamere siano dappertutto, che in un momento di sicurezza io non sono contrario, ma non interessa. Cioè non c'è niente da nascondere, l'importante è che appunto venga tutelata la sicurezza di chi vuole andare a scuola. Un film verità sulla debacle del sistema scolastico nella nazione più ricca del pianeta. Scuote l'America, l'ultimo documentario di Davis Guggenheim, premio Oscar nel 2006, con una scomoda verità, film che costrinse l'America ad interrogarsi sul cambiamento climatico. Marta Cagnola. La scena di un'estrazione a sorte apre e chiude il documentario Waiting for Superman. And the first student selected? 20. 9. 18. E non è una lotteria come altre, è quella che attribuisce i posti nelle rare scuole pubbliche di qualità negli Stati Uniti. Rare perché, mostra il documentario, la maggioranza delle scuole statali in America sono delle fabbriche di analfabeti. Among 30 developed countries, we rank 25th in math and 21st in science. Fra i 30 paesi più sviluppati, l'America figura al 25esimo posto nell'apprendimento scolastico della matematica, al 21esimo nelle scienze. Il 69% dei suoi alunni di terza media non sa leggere e scrivere in modo adeguato. Il 68% è insufficiente in matematica. In California, cioè lo stato più ricco degli Stati Uniti, il 20% dei liceali lascia la scuola senza ottenere il diploma di maturità. La percentuale di abbandono scolastico prima della maturità sale al 26% tra gli ispanici, al 35% tra i neri. What inspired me to make the movie? And that feeling when I drove my kids to school and I drove past the school in my neighborhood. Cosa mi ha ispirato a fare questo film? Il sentimento di disagio che provo tutte le mattine quando porto i miei figli nella loro costosa scuola privata e supero guidando la scuola pubblica, spiega il regista Davis Guggenheim. I don't know what college I want to go to, but I know I want to be a teacher. I want to be a nurse. I want to be a doctor. How come? Because I would like to help somebody in need. Nel film ci sono tutti i sogni dei ragazzi e lo scontro con la realtà, ma anche storie di speranza, troppo poche però per la nazione che vorrebbe essere modello per il mondo. And the last number? È tutto, ci risentiamo sabato prossimo alle 12:45.